Letture di Radio 24. Secondo la tradizione, l'apostolo Pietro sarebbe morto a Roma nel 64 d.C., subito dopo l'incendio della capitale. Ma Pietro ci arrivò veramente a Roma? Se lo domanda l'archeologo Andrea Carandini in un articolo pubblicato sul domenicale del Sole 24 Ore. Una questione sulla quale la critica cattolica e quella protestante assumono posizioni contrapposte. Gesù, nato secondo Matteo e Luca da una vergine e da un dio, come Romolo. Sia il primo che il secondo insieme di racconti si articolano in varianti, sovente contraddittorie, che non coincidono con le realtà delle due figure, che pertanto non possono essere considerate storiche. Infatti, miti ed elaborati simbolici hanno fini diversi dalla storiografia. Sono memorie prestoriografiche. Ciò non esclude che tali narrazioni possano incorporare dati preziosi di natura reale, che fanno ritenere Romolo e Gesù miscugli di leggende e di storia, in parte inestricabili e in parte comprensibili. Ha quindi poco senso sia tenere questi bambini nell'acqua sporca, sia buttarli via con essa. E come le fonti su eroi e fondatori devono essere considerate alla luce dell'intera letteratura classica, così lettere di apostoli, Vangeli e Atti devono essere reinseriti nel contesto delle scritture ebraiche. In queste ultime, ad esempio, è possibile trovare tutte le idee teologiche di Gesù, che pertanto gli preesistono, salvo due: che la fine dei tempi coincideva col principato di Tiberio e che il Messia e figlio di Dio era lo stesso Gesù. Quando la terza mi ha chiesto di tornare all'auditorium per parlare di uno straniero a Roma, mi è venuto in mente quel continuatore di Gesù che è stato chiamato Pietro, primo ad estendere l'orizzonte tutto palestinese ed ebraico del Signore, fino a raggiungere i confini della terra, quindi l'Occidente pagano, incentrato su Roma. Dovevo poi accompagnare il personaggio a un anno e ho scelto il 64 d.C., quando probabilmente Pietro morì martire, subito dopo l'incendio della capitale. Ma Pietro ha raggiunto veramente Roma? Qui si confrontano due posizioni, una di critica temperata soprattutto cattolica e una di ipercritica soprattutto protestante. Per la critica temperata Pietro è giunto a Roma, ha svolto una funzione di comando nella comunità giudaico-cristiana insieme a Paolo ed è stato martirizzato da Nerone nel suo circo in Vaticano. Le fonti più antiche sull'argomento sono 10 e si datano fra la metà del primo e la metà del secondo secolo d.C. Secondo Tacito, Nerone accusò i cristiani dell'incendio, per cui li fece sbranare, crocifiggere e ardere in uno spettacolo circense. Per l'ipercritica, quelle 10 fonti documentano nient'altro che una falsa leggenda, volta a dare il primato alla Chiesa di Roma. Il mio parere è che sarebbe stato assai arduo inventare, nell'evoluta Roma tra Nerone e Nerva, che il primo apostolo fosse stato a Roma quando mai vi aveva messo piede. E ciò solo una generazione dopo i supposti eventi. Per gli ipercritici, Pietro sarebbe morto a Gerusalemme intorno al 55. Ma allora perché gli Atti non menzionano la scomparsa? Bisogna ammettere che vi è una lacuna documentaria per Pietro, lunga una decina d'anni, in cui il primo apostolo sembra sparire. Ma la documentazione poi riprende, a partire da una lettera di Pietro inviata da Babilonia, cioè da Roma, alle comunità dell'Asia Minore, in cui si nominano il segretario Sila e Marco, il futuro evangelista, che aveva lasciato Alessandria nel 62, probabilmente per Roma. D'altra parte, Gerusalemme era diventato un luogo terribile. In quello stesso anno, Giacomo, fratello di Gesù e capo della comunità cristiana, era stato condannato a morte per lapidazione dal sommo sacerdote. Pietro potrebbe quindi essere giunto a Roma intorno al 62 ed essere morto poco dopo l'incendio, tra il luglio e il dicembre del 64. I greci e romani convertiti cercavano di ridurre al minimo i rigidi rituali ebraici, a partire dalla circoncisione, per cui una variante della religione ebraica si stava trasformando gradualmente in una religione universale a sé stante. La Palestina e la sua cultura sfumavano così sullo sfondo e il cristianesimo germogliava in ambienti ellenistici e romani, entro un ambito culturale ben più vasto. Costantino, che si riteneva episcopos di coloro che erano fuori dalla Chiesa e uguale agli apostoli, indisse il concilio di Nicea anche per separare la Pasqua degli ebrei da quella dei cristiani. Fece di una religione che ambiva all'universo la religione dello stesso impero e alla fine del IV secolo il paganesimo venne ufficialmente soppresso. Prima Pietro con Paolo e poi Costantino e i suoi successori cominciarono e portarono a termine una rivoluzione culturale di dimensioni colossali. Si era passati così alla Roma Babilonia di Pietro fino alla Roma Nuova Gerusalemme di Costantino. Sempre a Roma, Costantino valorizzò le tombe di Pietro e Paolo, incentrando su di esse due basiliche. L'importanza della Roma cristiana si fondava dunque principalmente sulle tombe di Pietro e di Paolo, considerate trofei di quei martiri. La città era seconda solamente a Gerusalemme, che disponeva del Santo Sepolcro. Quando Costantino si fece seppellire a Costantinopoli, tra le tombe dei 12 apostoli, raccogliendo reliquie in giro per il mondo, la vecchia capitale era stata superata dalla nuova. E quello che avete ascoltato era un articolo di Andrea Carandini dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Mentre da noi gli SMS vengono usati spesso per messaggi d'amore, in Arabia Saudita le autorità li utilizzano per segnalare ai mariti che le loro mogli hanno lasciato il paese. Dov'è tua moglie? Te lo dice il governo, con un SMS. Tutto è partito quando, a metà novembre, una donna in viaggio con il marito ha scoperto che il suo uomo aveva ricevuto un messaggio sul proprio telefonino che lo informava che lei aveva appena lasciato l'aeroporto internazionale di Riyadh. Mittente, le autorità saudite per l'immigrazione. In Arabia Saudita la tecnologia, dunque, è ormai usata per controllare e monitorare le donne. Un SMS informa il tutore della donna in questione, che secondo la legge islamica è di norma il marito, ma qualora la donna non fosse sposata, è un membro della famiglia, in genere il padre o un fratello, nel momento in cui quest'ultima dovesse lasciare i confini del paese. A far scattare questo tipo di misura sembra essere stato il caso di una donna che, con la complicità del proprio datore di lavoro libanese e di un collega, era scappata in Libano. E così, al divieto di guidare le automobili e di lasciare il paese senza il permesso del proprio responsabile legale, per le donne saudite si aggiunge quest'ultima trovata. Altro che messaggini d'amore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Morelli «Dov'è tua moglie? Te lo dice un SMS» dal magazine 7 del 7 dicembre.